Allora, siamo pronti. Io amo dire che siamo negli ultimi 3 giorni, quindi è un panico controllato, perché comunque di panico si tratta, visto che avremo 500 atleti a spasso per l'Appennino. È tutto pronto, si partirà alle 23 da Bologna per la gara più lunga da 125 km, si partirà da Monte di Fo, Passo della Futa, per la gara media di 55 km, si partirà da San Piero a Sieve di sabato per la gara più corta da 32 km. È tutto pronto, aspettiamo 500 atleti, come dicevamo. Il meteo sembra discreto, anche se gli atleti si divertono anche con la pioggia. Qua è l'occasione propizia per accendere i riflettori sui percorsi delle nostre, dei nostri Appennini, e parlare anche di mobilità sostenibile. Assolutamente, ci piace anche definirla, questa via degli dei, la vera variante di Valico, perché comunque collega Bologna a Fiesole o Firenze. Noi ci fermeremo a Fiesole, a Teatro Romano. In realtà la via degli dei arriva fino a Firenze, e anziché andare a inquinare con le automobili lungo la variante di Valico Vera, noi la percorreremo a piedi di corsa in massimo 32 ore. Diciamo comunque che le iscrizioni sono chiuse, il successo è che ci sono 500 partecipanti, e seguiremo la corsa in qualche modo. Sì, allora la corsa è possibile seguirla con il live che trovate alla home page del nostro sito, che è www.ultratrailviadegli.com, c'è il tastino live, potrete vedere i passaggi intermedi, i vari checkpoint, che sono 7, di tutti gli atleti. Prevediamo che il primo atleta riesca a completare il percorso in circa 12 ore, 12-13. I più lenti arriveranno, gli diamo tempo comunque 32 ore per arrivare. 32 ore limite massimo di arrivo. Sì, 32 ore limite massimo. La media dell'anno scorso è stata di 24 ore, quindi il primo 12, l'ultimo 32, ma la media è stata comunque di 24 ore, che è una gran buona media. Direi di sì, 125 km in 24 ore. Non dimentichiamo il dislivello, che è di 5.100 metri positivi. Okay.